Per me le lingue della sacca sono veramente tante, tantissime, perché se parliamo di lingue parlate, e nelle lingue parlate ci sono le lingue di tutte le persone che abitano quel quartiere lì, quindi con tutti i dialetti del Nord Africa, con tutti i dialetti dell'Africa, con il turco, il cinese. Tutte le lingue dell'Europa dell'Est, quindi, e ci sono tante. Quindi, davvero è una Babele, ed è il suo bello, ed è il suo bello. E ovviamente complicato perché non sempre poi si trova la lingua, che permette alle persone di comunicare, però davvero. Sono tante, tante, tante le lingue, tante. Poi forse gesticolare è la prima di tutte perché permette a tutti comunque di trovare modo di... Però sì, sono tante, tantissime. Non c'è una lingua prevalente, a parte l'italiano ovviamente. Poi, cioè, poi mi dimenticavo il napoletano, dimenticavo i vari dialetti... dell'Italia, perché anche quelli ci sono. سألوني كيف تربطين اللون الأحمر بالميليندا. بدون تردد قلت قلبا أحمرا نابضا، لأن القلب هو رمز الحب. وإذا طلبنا من أي شخص كبيرا أو صغيرا كان أن يرسم لنا قلبا ويلونه، فسيكون رسما موحدا في الشكل، وحتما أحمرا فاقعا.